ciucco ciucco. Beh, Gio Maria. E te sei già pagente? Ti sento basso, meglio ti sento, Gio Maria. Basso sono? Ce ne avete, ma già ti ascolto bene, vi radio. Perché sono con il gommino, capito? Gli arrivi bene a voi, ci mancherebbe. Eia, dai là. Ci sentiamo a Torre. Eia, ok, a posto. A dopo, dai, ciao. Ciucco ciucco ciucco ciucco ciucco ciucco. Dimmi tutto, dimmi. E te se sei pagente? Nulla adesso, niente. In questo monumento stavo facendo dopo stamattina. Adesso vado a giocare. Domani mattina ho la saldami delle pacco batterie di un qualche marino. Una volta che è pronto poi lo consiglio, mi posso fare di là. Bene, bene. Cazzo. Io stavo in casa senza fare niente, la noia. Vai a cosa, la piccocina ti fai un giretto, cioè so pochi di portati di VHF, V e U addirittura, la coppia. Ma, magari sei più giovane, già esci, giri, ma quando gira... Vabbè, fa bene girare, fare un giro dei negozi, non è che faccia male, no? Sono stato dentro a casa Lampardo, magari ti compri qualche cosa, vai a città mercato, cosa vuoi dire? Fa bene girare, no? Stare dentro a casa fa un po' male, perché non sai cosa fare, devi sempre girare nei muri, hai capito? Ehi, carna gara, già esci, a vendicare magari ha fatto il giro, già ricca... fa cosa non beute, a manco per il movimento, però è caduto fino in gana, dici cosa vuoi fare, per carità, basta, e avrei a cominciare di bere, mi sembra la campagna, forse qualche cosa in campagna, lo manco, cazzo cosetta però, quel poco, meglio di niente, Giuseppe l'ho trovato ieri a Bicuccina, l'ho trovato, c'era anche il fratello di Ginco, c'era, non stavo neanche riconoscendo, infatti ho salutato, sono andato lì per chiedere, stavo cercando se c'era di iscritti per la programmazione di quei portati, non mi avevano, capito? E quindi poi me ne sono tornato a casa, cioè sono andato un attimo allo spi, mi sono pigliato la birra e poi sono tornato a casa. D'accordo. Ma sei andato a prendere il Gatorade? I pietri? Il Gatorade, all'Eurospin. No, no, ho preso la birra lì da cosa, vicino a Maurizio. Cazzo, sono andato a chiedere quanto mi pigliavano per sistemare il coso, il vetro LG. 75 euro mi ha sparato. Ho detto, per 5 euro devo andare in negozio, ho detto, ancora te me lo compro. E che modello è? E loro sparano sempre alti, capi? Sono beccari, so. Modello K4. Allora, il vetrino non lo cambiano più. C'è il vetro, proprio il vetro suo. Comprano tutto assemblato. Il vetro costa 6,70. Visto come si smonta, come lo fanno da YouTube, capito? Quindi figurati tu. C'è le viti normali, quindi devi aprirlo tutto. Poi devi scaldare col phon, capito, il vetro esce piano piano con una taglierina. Forse tu non hai capito che è incollato sopra il display, non lo puoi cambiare, ci vuole un macchinario per cambiarlo. Adesso li vengono assemblati, direttamente cambiano display e vetro, capito? Ho capito, boh. Su YouTube non l'ho visto fare così, naturalmente, i display non li hanno cambiato, gli hanno lasciato quello che c'era, gli hanno solo tolto la parte di davanti dove c'era il vetro e basta, i display li hanno messo da una parte. Poi con la taglierina, prima hanno scaldato il vetro, poi con la taglierina l'hanno tolto e ci hanno messo l'altro. Allora metto LG K4. Ehi, LG K4, basta che guardi su YouTube, lo vedi subito. Capito? Come cambiano il vetro? Ce lo fanno vedere. K4 del 2017, per esattezza. Yep. Ciao Gio Mari. Cosa sta facendo? Sono svegliato poco fa, da oggi sono riuscito a riposare, che c'è più silenzio. E adesso mi stavo facendo merenda. mi raccomando, cosa buona? Un budino al cream caramel. Ah, va bene, va bene. Ah, va bene. Fammi, io mi sto capettendo con un computer e ascoltando. Ebbè, io se vuoi fare. Tanto va a ammazzallura, là. Già ci passa il tempo. C'ho anche io il PC qua, me lo sono portato, ma non lo uso neanche. Ok, niente. Un po' LG K4 mi hai detto. Ehi, LG K4 del 2017, per esattezza. C'è anche il video su YouTube, c'è. Si vede subito, ti farò vedere come cambiare il vetro. Se lo vedo io, aspetta, tanto io sono anni, Già sono qua, già sono qua. Guarda il video e lo vedi subito. Sì, ho visto, no, già è vero, non è di quelli che si può staccare, ma 75 l'ombre, te l'ho chiesto. Scherzi, ho pagato 80 dalla Kobe che l'altro, ce ne ho due stati, uno è nuovo e l'altro c'ha il vetrino staccato, però costano poco, capito? Poi 80 euro ho pagato la Kobe, figurati, lo sconto. Sono belli come telefoni, no? Non ce l'hanno magari molta memoria, però cazzo, almeno sono belli. Lo so, se ne è pagato poco, si va in baga. No, io ho un telefono così, se una cinquantina di euro prendo, se uno che non conosco. A te cosa ti posso fare? Una quarantina? Di meno no, se cosa non c'è. Poi non, tu hai visto un vetrino che non è originale, io te lo prendo originale. Aspetta, alla fine ora ci guadagno. Una quindicina di euro, 20 euro. Vabbè, ma lo fai tu, non c'è problema, capito? Se appena ritiro il, come si chiama, ti chiamo, vieni, glielo prendi, dopo il primo di marzo, perché quando sembra avessi lo danno a cose, i primi di marzo, lo hanno bloccato tutto per la questione delle elezioni, hai capito? Cani morti alla regione, cazzo. Cosa le costava dare, cioè, due mesi assieme. No, una solo, cazzo. Oh, yeah. La data di presidente della regione ci abbiamo, uno peggio dell'altro, ecco. Beh, ho visto come si fa, non è difficile. Non è difficile, adesso guardo quanto costa, quello originale però, non ne prendo io, cosa non è originale. Sì, 70 mi sembra di averlo visto, la verità, originale, proprio metto su originale, 6,70. Poi ci vuole anche la colla, perché non ne hanno biadesivo, non ne hanno biadesivo prestampato sopra. E un tubetto di colla costa 8 euro, 7-8 euro. E la colla ci vuole, sì, vuole collato. Nel video devi metterci ci sono dei punti dove va messa la colla e basta. Appena, proprio un filo. E ho capito. Adesso controllo, aspetta. Ehi, d'accordo. Chiamami! Chi è? Allora qua c'è l'originale, qual è completo di cosa, di display, mi è già assemblato, non fai altro che mettergli la colla, glielo incolli e costa 32,50 euro. Che cosa, il vetro? Oh, è touch display, 32,50 euro. Touch display, mi figurati. Sì, perché quando tu, allora ti spiego, è come se tu lo stai mettendo assemblato, perché devi trovare la posizione giusta del display, non devi sbagliare un millimetro, niente, zero, lo devi mettere giusto, attaccato al vetro, invece loro te lo hanno già pronto, tu devi mettere la colla piano, i bordi in alto, e lo fai asciugare bene, e poi una volta asciugato lo puoi usare, però vai sul sicuro, perché se sbagli poco è un casino. Devi di nuovo staccarlo, poi magari rischi di lasciare impronta con le dita, no? Un casino, non è facile, pompure. E allora lo lascio così, se la biglia in culo. Già tanto già funziona il telefono, non è che non funziona, funziona bene lo stesso. Tutte le funzioni le fa. Lo lascio così come se la biglia in Napoli. Ma l'ha calcolato a tavolino lì più che altro. Ha squillato a casa, ha camminato da solo, poi in terra, cazzo. Cazzo, sono tutto solo. Invece gli unici telefoni che vanno bene sono i Nokia Lumia, quelli non si spaccano, quelli sono infrangibili, insomma. Sì, figurati. L'unica cosa che non devi fare è lasciarlo così com'è Windows 8, perché se passi a Windows 10 e comincia a dati numeri. Infatti l'aggiornamento di solito quando si prendono i telefoni come il Samsung non bisogna mai farne aggiornamento nuovo, perché si imballano, hai capito? Bisogna poi resettare tutto, fare le reti di fabbrica e riportarlo così com'era. Luca Birolina! Antena Luca Birolina! Luca Birolina! Ui ui, ciao Mari! È sparito, eh! Ogni tanto appare qualcuno nell'applicazione Midland, cazzo blu, ce l'hanno anche così adesso, I caravan, cazzo! Non potevo pensare di baracchino, no, sul telefono, cazzo! Vabbè! Un po'! Antonello, ci sei? Pompo, farato sì sì. Oh oh. Luca, San Camillo. Ciao Mari. Che è? Che è? E lui, che fa lui? Luca è infame! Ci sta fatto rigigioni! Cuffetta triste! Ehi, you! Dormita, sei? No! Ma che facendo? Nulla! Come nulla? Guardate la zuppa di Luca Flipper! Te l'avrei anche comprata, ma non hanno telecomando! No! Ok! Senti! Sono le 7 meno 25! Cazzo, una scena, eh! È una scena, c'ho Graziano! E siamo? Sempre andare a sputtanare gli altri! Copiato lo hai? Sì, pure a me l'ha mandato. E da adesso in meno 10 mi sembra l'acceso. Quello lì. E ancora ce n'è un'oretta. E già scalda, già lo so che scalda. Avevamo i biglietti, i barattoli, di si belati, manni. Quelli da 3 kg mi sembra, su. E la costruisco io una a provare, ma tanto lo so che già funziona. Lo faccio appoggiare e falegname via, ma vabbè, tanto mi ammazzare un tempo. Grazie. Ehi. Se ti guardi bene il video, dal primo che ti ho mandato era nelle 4.25, non li siamo anche dentro. Le 4.25 sono le 7 meno 20. E na ancora un'oretta. Ah, giusto, giusto, vero, vero. Però sempre 2 chili di pelle se ci sono. Quasi 2 chili. Cioè, a paragone all'altra, ma a paragone anche di calore neanche vicino lo puoi mettere. Oh, vedi. So con studenti. Luca, studenti! Già lo so che funziona bene, che caldi buio. Adesso se la deve fare anche Luca Maricone, ha detto che di pigliare un tubo del ramo che venivi del pluviale, così è Luca. Il pluviale del rame va bene lo stesso, no? Ha voglia! Quello scalda ancora di più. Però devi bruciarlo prima, che toglie tutta la roba che c'ha, capito? Chi ci sono tutti le rame, quei tubini? Sono già puliti. Puoi farla anche alta 1,20 m, 1,5 m, capito? Perché se la fai piccola devi stare sempre pianendo. Se la fai alta invece 1,5 m o 1,20 m, solo che considerando che poi ti fa una fiamma alta, capito? Invece farla piccola, un po' più larga sarebbe meglio come questa. Più larga è, più caldi buco. Io mi ricordo col bidone in falegnameria, era grande la sala messa, eppure con un bidone accanto il trapo, alla una aveva un calcio di chiudere che apriva il balcone, perché c'era un bel caldo. Luca, Mariconi, fatta là la visita. E allora? Ma non vedi a via Zamparino o al Conte? Ero lì al coso, all'INAM. In via Zamparino là, e dove vado io? Gli ha fatto un po' di domande, sarà diabetica, sarà operata la retina, la cataratta. No, ma io in genere lì vado, perché lo sa, tutti i diabetici che c'ha il mio medico, diabetologo, li manda tutti lì, capito? E dunque praticamente ti fa quell'esame degli occhi per vedere la diabete, capito? E infatti gli altri di mettersi a dieta? No, a me non mi ha detto nulla, sono andato da poco anche. Non mi hanno detto niente, mi aveva detto solo perché era un'altra, questa, la dottoressa. Perché non si vede? Sì, già si vede. Sì, ma mamma si deve mettere la dieta, grazie. Se non la vuoi ti cosa devi fare? Oggi a pranzo, niente primo, due calamari col sughetto, l'ho mangiato. Cosa faccio mangiare? I carciofi. E poi cosa mi ho mangiato? I carciofi. Un'altra cosa non me la metto. Vabbè. Io a pranzo cosa ho mangiato? Che ho mangiato a pranzo? Ma come la metto? Ma che cosa, ma cosa mangiate? Cosa hai fatto a pranzo, Mari? Pollo? Brodo, grazie. Già è buono. L'ho fatto l'altro giorno. Il purè con i funghi verde. Ne fate altre gambe. Primo niente, e pare mi ho mangiato insieme a quella roba mezza foccata di quelle lunghe, piccoline, là, non grande grande. Un arancio, Ho mangiato la frutta, le carote pure ha messo, il pollo. Buone, nell'altro giorno l'ho mangiato anche le carote, con un filo di olio d'oliva, bollite. Buonanotte. E anche la cipolla fatta truffrizza un poco con un po' di aceto di vino. Buonanotte, era. È una bella fettina di cavallo a dondolo dondolo. Tennara tennara, burro era. Addirittura burro. Burro era di canto e la denna, rami. Si tagliava uscì con un pezzo dei rubani. Poi ho carne di cavallo, quindi dave aglio, prezzemolo e peperoncino. Vabbè, grazie. A gusti, dai. Aspetta un attimo, che ci ritiro queste due robette che ci ho sul tappo. Non c'è nessun altro, Luca, solo noi tre siamo, eh? Luca Flipero sta provando le stufe. Luca Flipero, quante ne hai fatto di questi modelli? Sei sempre costruendo. Quanti prodotti ci hai combinato fino adesso? Ah, mi senti, Flipero? Ho detto che si va blu, le cose via bugia vicino alle poste. Ah, cosa hai detto lui? Noi, chi vive già appena appena più giù sulla sinistra, vende anche i condizionatori d'aria e stufa a pellet, e dunque c'è Gialli, gli rovini la piazza. No, chi sono di buono subito? La bomba, la serrata, o se no li devi pagare la tangente, un pizzo. È vero. E allora, poi passo io a incassare il pizzo. Io e Luca passiamo a prendere il pizzo. Lu, andiamo. E Lu? Giocato a Torpedo Blu. E a noi il prototico ce lo regala, E Torre senza motore, sentito, sì. E tanto gli animagni mi te lo regala. No, deve essere un ragazzo, fa. Già il buon curi, là. Già è dolce dolce. Ho finito. Dabbè, il buco è morto i clienti. Allora. Ali Gigi, chi su Magone a Prandaneta, a chi non l'ha pagato la picchi di Grubuscetta, Gigi. Il brutto sai cosa è? Il brutto è che se l'ha sposato, la moglie è minimo lo lincia. E se la guivata allora fate schifo davvero, per carità. Quel video che mi hai mandato, l'ho mandato a un sacco di ragazzi, Luca. A chi? Quel video che mi hai mandato. E beh? L'ho mandato a un sacco di donne. Ma va. Sì, io sai che già mi hanno risposto alcune. Sì, va. E passo un bagaglio, vedo un video. Va. Giusto, è così, Cazzo! Già sa due strisce già. No, dici, a risare due strisce. No, non sono state meravigliate per niente, proprio per niente. Proprio si immagina. Figurati cosa ne ha futtia. Vuol dire che sono esperto, non viene più, no. E mi chiedo un video come tu un tempo. Magari prima era tutta la cua, oramai è tutto pubblico. Ma infatti. Figurati Gigia, tutta bella tranquilla quando chi tu le interviste ne manco malati in camera, la via. Lo so. Ma oggi è così, non è più come prima. Prima, già rifatti erano una tazza di cose, ma tutto a tappeto, Però già era la stessa cosa, solo era meno pubblico, ma... Ormai se non gliene frega niente. Ormai. E poi a tempi di oggi sono i femmini che andano a seccare l'uomo, non come te prima, uno mandati a seccare una femmina. È all'incontrario, è tutto all'incontrario, non lo vedo. Fissa l'uomo, li sono bucciurati, che si sono fatti i femmini. Cazzo di altro! Purtroppo sapevi qua. Su internet l'arte di finirani, tre coppie, due uomini, tutti uomini, no, che graviti, non l'hai visto? Addirittura graviti? Sì, col pancione. E tu li devi vedere, belli fieri, contenti, ma ti se la balza, E perché possono rimanere incinta? Sì, se fa gli interventi e tutto, sì. E allora, io ho visto anche un programma al televisore. Se fai gli interventi, ridi in altri muri. Può rimanere anche incinta. Oggi con la tecnologia gli interventi sono una cazzata con tutti i macchinari. Tu figurati adesso per dire, no? Le cataratte. Entri da di un'oretta di Nisi Andegni e stanno in buccia i cristallini. E io sono cucciato un anno buonoce e un anno ballato quando mi hanno operato. A che oggi l'ha fatto vedere? Una paziente è entrata e poi neanche all'ospedale, nello studio dell'oculista gliel'ha fatto lo stesso l'oculista, un chirurgo, però si è sempre fatto gliela, senza fare operazioni né nulla, gli ha installato i cristallini. Hai visto, adesso vada bene. Sì, sì, l'hanno intervistata dopo quella, quando ha finito tutto lì. Era contentissima che ci stava buttando gli occhiali, non aveva più bisogno di occhiali. Una donna era, quella che si è sottoposta all'intervento. Hai visto? Adesso, e infatti ha detto a me mi ne rimanea tu. Scusate Emilia Franchi, Baonocci e scusate Ballasso. E sono cucato un anno Baonocci e un anno Ballasso, e sempre il curenne. E oggi entri ci. Vabbè, potevano inventarlo prima. È vero. E anche di Nagi Pesu, andai in Ivi allo studio in Via l'Italia a farmi laser, al controllo, tutto a pagamento. Oggi entri e vai a romanzare, romanzano di Nidorre e sei a posto. Hai capito? Paga. Rimani così. Ma anche gli interventi, se hai visto adesso, prima dei Vasiani l'Italia, apriani tutto, adesso c'hanno quelle cannette, hai visto, ti fanno un forellino di niente e fanno tramite massimo 3-4 buchetti, se entrano in questi cannette e travagliani così, prima di apriani tutta la massa ed era tutto diverso, per un amico mio si lo vedi da subito. È tutto pieno di cicatrice perché quello che hanno operato poco. Pari una gerniera di un giubbotto, ma tu t'abbetti in pitorra, in panza, in ricna, dappertutto. Picchietta. Ehi, c'aveva la cista e cocco, perché quello lavorava in macelleria, macellaio da piccolino. E si è preso quella malattia là. Ce l'hanno praticamente la contagia nei cani, la cista e cocco, dall'alito dei animi, si può contagiare, c'è un virus che c'è al cane, carne, dalla cella frigorifero, gli era venuto quel malanno, perché era troppo a contatto nella carne. E c'è malato. E a più mai muri, e ce l'hanno giusto a bici, se te lo sto dicendo. Una lì, quando l'ho preso io a lavorare, aiutarmi a scaricare il camion, quando era conto mio, ha avuto un colpo così a ripati, no, a buffonelli, stavamo chiacchierando. Adesso si è pigliato in tre, e allora me l'ha detto, dice, ma va, la maglietta l'ha pigliata un assunto. In che condizioni era? Infatti, dopo di un po' ce l'ho mandato, non l'ho più chiamato. O se mi toccava a pagarlo bannuvo. Vabbè. Sto dicendo, la cerniera di un giubbotto, di quei giubbotti larghi, grandi, così, dappertutto, tutto, la bitorra, la scina, tutto a becchio, questa è di brazza. Brutto, eh. Non sono cose belle. E anche la faccia della buona madre di mamma io ho visto. Prima di morire mamma mi ha detto, siccome parlava al sardo mamma, mi ha detto all'ospedale, abbaida, come te manabilto, come te un'anzone, ha fatto un insulto, la matta si cosa come tirai su un bicino, tutta bella era in panza. Cosa fai? Sì, no, ma poi quando l'hai operata, Sì, durati a 10, se ci prende 48 ore tutto a posto, invece è molto a manzani, gli è venuta un'embolia polmonare, anni di tutto, bah! Roba è morta, grazie. Mamma è morta che era giovane, 52 anni ci aveva, e va via, di malanni che va giù, c'ho tutti i malanni che ci aveva la mamma, la buona anima. Babbo è morto dopo tanti anni, e babbo era molto male, ma sì. Però pari a babbo, che babbo era stato operato anche prima, a l'ulcera perforante, e se l'ha vista brutto, la viene dato il brullo giù santo, e se l'ha scampata per un pelo. Ma si trova, no? No, è morto 5 anni fa, mi sembra. Però, con fronte a mamma, è campato altri 20 anni. Vabbè, è stato più fortunato. Babbo, come fisico, rimaneva tutto nero, asciutto, mi. Babbo era tutto nero, e non era grasso, era magro. E asciutto, capito? Poi di cuore era forte, babbo. Vabbè, anche lui giovane. No, babbo va via 80 anni, quasi 80 una via. Vabbè, già giovane era. Ma era molto male, gli ultimi 4 anni mi sembra. No, non si rimbisava nemmeno più da l'orecchio, era sempre cuccato. Beh, io sono del parere che se per stare così, meglio morti. Già ci alzava e andava a finestra, ci faceva la finestra, però dico a uscire, andare, non è più andato da nessuna parte lui. Come carattere però era sempre forte, anche quando era all'ospedale. Murenni, allora si è fatta pigliare tu, un comodino l'ha accusato in filmini, ed è ben morto. Addirittura? Non so cos'è, l'ha detto l'infermiere, si è fissato dalla rete, ha preso il comodino e l'ha tirato all'infermiere e poi è morto in piedi così. Ehi, ha cantato carmigiera, gli ha morto, era zitta in a me, cantato carmigio, però era già morto. Ma come mai gliel'ha tirato, cosa gli ha fatto? Non lo so cosa gli ha fatto a me mi l'hanno detto l'altro in battenti che erano in questa gamma, non mi l'hanno detto, ma cosa mi l'hai detto? Ma come l'ha contro l'armadio? Sicuramente l'avrà fatto in casa, a chi babbo? Era bravo e buono, ma non si girava, era lì, cavoli tui. Dopo tanti sacrifici, pure lui, ha travagliato, una vita ha travagliato. Sabato, domenica, giorni di fine, sempre ha lavorato mio padre. Si è travagliato per tenere sulla famiglia, dai. Già lo grido, era messetti in tutto. Quattro maci e tre femmine, una mia sorella è morta, la più piccola Anna, e quindi voi anni di là, allora noi come te avevamo i buchi tutti, già si arrangiava babbo, però già buscava anche, però soldi ce ne volevano lui. Me lo posso immaginare. Ma metto la bonaia di mamma, ogni 6 mesi, 2 volte all'anno, si buttava in piazza a Tola, da signora Annitta, che era una amica di babbo e di mamma, chi c'è 20 anni volte, non so così vecchia che di una ancora, che c'aveva anche il negozio, lì c'aveva lì in piazza a Tola, e si pigliava rivolta a tutti. Chi da si bruciava il Natale al banco e cominciava a misurarsi i voti, la metà ancora. Ma c'è tua mamma com'era? Mamma, come fisico era snella. Non era robusta, una bella donna, mamma, era alta, più alta di babbo pure. Babbo era pace, canta e mezza. Mamma era di Bologna, dei paesi, e non era sassarese. Babbo l'ha conosciuta qua a Sassari da ragazzino, perché lei se n'era venuta in città a lavorare, lavorava da una signora pure di là. Ma è morta troppo giovane. È morta, gli hanno fatto l'intervento alla pancia. E va bene, di disturbo che va giù io. Prima, va bene, non c'erano tutte le medicine che ci sono adesso, capito? Da una pezza di mucca. Ma a voi viene avvisato, era pericoloso che ci poteva rimanere? Sì, che lo sapeva, siccome l'avevano già fatto l'intervento, poi era a casa e la dovevano rioperare, non so cosa. Infatti mia madre non ci voleva andare la seconda volta. Invece babbo l'ha convinta, lo vedi che è tutto, è andata e non è più tornata. La ridorra messa ed è rimasta. Ma voi lo sapevate che era a rischio, che ci rimaneva secca? Sì, che lo sapeva, poi mamma lo sapeva che era un intervento un po' delicato, però sino adesso, come avevano detto a tutti quelli che avevano fatto, era andato bene, capito? Anche a me non me l'ha detto la salute, c'è cambiato, si deve rassegnare, dobbiamo fare un piccolo intervento, lasci perdere, non la chiedi fare intervento, lasci, già sta una rasura, se no via. Chiami il capo Gucci. Ma pure tu l'intervento come quello di tua mamma? Ehi, invece no, perché mi si era ristretto un pezzo di intestino, un 20 centimetri, nella video che quando mi ha fatto per vedere dove era, no? E mi va a chiamare a me adesso a base, perché si era ristretto un pezzo di intestino, capito? Invece poi con le medicine che mi ha dato le ho prese e non è che è tornato come c'è prima, però già il mangiare già passa lo stesso, piano piano già passa. Ecco perché io non mangio un bene. Ecco. E c'era ristretto da solo, no? Ma per via della malattia, amico. Capito? Sicuramente a me mi l'aveva detto che gli interventi non ne potevo subire. Cazzo, la mamma mi fa l'intervento. E vai la cabecchina. E va tu vai. E allora, la gente non mi ha funzionato. Se funziona, funziona. Se non li ha messo come ci sono. Davvero, devo cribare a crepucci. Vai. E capace mi viene cribato da qui. No. Lascia perdere. Un'amica mia era come me. La ribolta male di mucca, più piccolo sacco di me, mi pare che aveva 43 anni, no? Così, 43 anni ci aveva. Icchietta. Cazzo. E io gli ho detto, vai, non ti farò operare, continuati la cura e la carica già. Ma mi ha detto, mica in cazzo, qua vai da te. Io non mi sarei fatto operare, invece lì si è fatta a fare l'intervento e c'è rimasto sotto. Vabbè, prima era diverso, prima era più facile morire, adesso già, vabbè, pure adesso credo sia facile, dipende da quello che hai. Ehi, ma dipende pure dai medici, oggi come oggi un bel medici non era fusti nuda, neanche un prezzo. Lo so. Non gliene frega niente. L'hai detta giusto, infatti adesso vabbè. Ti faccio l'esempio. Prima aprivano tutto, facevano un bel taglio lì nella pancia per operarti la cistifelli, adesso fanno tre buchi e in due giorni sei a casa, due, tre giorni a casa. Se te lo sto dicendo, mica quando sono stato all'ospedale. C'era questo tipo che conoscevo, sentito un bel mare. Là di mattina ce l'hanno buttato, ce l'hanno alzato da sopra, l'hanno fatto l'intervento. Stava tre bici la rimanda da casa e se l'ha scampata bella. Me l'ha fatto vedere, c'aveva tre buchi, c'aveva il buco. Aspetta, stavo girando il pollo, sto facendo il pollo con Giselle. Ehi, è buono, è buono. Buono, buono. Ehi, io non so se c'è, non mi farò il tè. Faccio una banda ancora. Tè, grossa, mi rendi, dormi. Basta mangiare poco. Ciao Marino! Ehi, ma guarda che prima oggi non ho cucinato, Tu solo secondi. Guarda te, io ho mangiato il pezzatino di gamberi, ciao, sei Luca, non sbaglio Luca. E scusate il domino, grazie, sono in campagna, sono giù, che sto facendo un lavoretto e devo aspettare almeno una mezz'oretta buona. Poi accendo giù, accendo. Bene. Come... Io non lo sento, grazie. Ehi, ya! Ok Marino, va bene, a dopo. Perché Luca è col gommino Marino ed è in campagna, sta finendo un lavoretto che stava facendo. Fra una mezz'oretta termina e già entra da dentro casa. Capito Luca? Sì, dicono che quelle antenne sono di là da Bacchiso, non so se gliela date, Marino, ha detto Luca che quelle antenne sono da Bacchiso, non so se ci sei passato. No, non ti sente Luca. Luca ha detto grazie, già è passato. Ok, dai. Grazie, dai, mi assento 10 minuti, un quarto d'ora massimo, dai, ci sentiamo dopo. Vai, già ci sentiamo, già sono qua. Ok Marino, ha detto grazie. Ehi, Attilio, grazie a lui anche. Quel monitor già funziona, dai. Perché stamattina non mi stava funzionando, Già funziona. Vabbè, mi assento, arrivo subito. Ehi, Marino, ha detto Luca che il monitor già funziona. Ok, grazie. No, ancora evidentemente non si è sentito, ancora non l'ho sentito. Finisciti quello che devi fare, tanto lui in genere arriva verso le 7.20, 7.25. Già siamo qua, quando accendi già siamo qua, adesso Luca sta facendo cosa? Già è acceso qua, ok. Uffo. Ehi. Ma che faccio? Sto ascoltando una canzone. E tu cosa stai facendo? Sì, mi stavo lavando, mi sono asciugato, un pigiamato. Ehi, dovrebbe entrare Marino dopo, non sentite nessun altro. Ehi, vuoi giù? Ho capito. Chi era? E poi mi sono alzato a... a controllare il pollo, grazie, ma sai, già quasi cotto. A fuoco lento, piano piano. Ehi, anzi, mi sono dimenticato, ha fatto anche a mezzogiorno il zampone con le lenticchie. Buono, ne ho assaggiato un pezzetto. Ah, io sono solo da Capodanno. Lui. No, il cotechino. Questo che ha fatto oggi era zampone. Intendi? È una canzone alla sarda dedicata alla mamma. È bella, amici, se vuoi te la mando. Però è sardo, eh. Ite. Mandagliela che se la mette come suoneria. Bucca, sembra a bagno. Bucca pirulitico. Bagno, ma consumare poca acqua. Pari Luca Cantelli visto. È bello perché ci sono le figure della mamma del pupo. E pensavo la metto come suoneria. Aspetta la mamma. Però cioè, forse su Messenger. Cosa? Te la posso mandare su Messenger, ce l'ho. Eia. Te la mando. Sì, ma ne la mando a Luca io. Guarda che te l'ho mandata, guarda se è arrivata. Ecco che c'è, te l'ho mandata. Aspetta. E beh. Hai visto che bello il tramonto? Hai visto le foto che ho fatto ieri, grazie. Questa è la parte tua, quelle foto col tramonto. Già le ho viste, già sono belle. Hai visto che bel tramonto all'inizio della canzone che c'è? Veramente sono poesie. Se ascolti bene. Che sono poesie al sardo. Non lo capisci tutto il sardo, io già lo capisco. Io capisco perché... E io, perché mamma parlava al sardo in casa. Babbo campinarese, e so uno e l'altro. Qual è il foto che ho mandato? Luca San Camillo. Che sì, sono Graziano. Cosa? Graziano è mestizio. Sto guardando tra Ma ti sento l'uno. Senti la bocca al microfono. Sta guardando un programma alla TV dei camionisti. Camionisti in fattoria. Ehi, ma quello del ghiaccio stai guardando? Lì in Alaska. Oh, camionista in trattoria, ah, camionista in trattoria, già è bello bruno. Anche io l'altra volta mi ho guardato quel programma. È bello anche quel programma degli autisti, camionisti, anche femmine ci sono. In Alaska, la notte lo danno quello. E... Una buffera ed è di cammellena tutto cammellà e veloce, quello non te lo guardi, pure le donne. Ma da qui si è fermato più contatti, già ho visto, anche con dei carattresti. Adesso c'è la pizza io, quello è bello, è una cosa. E io quel canale lì, Alaska, me lo guardo dalle 4 in poi me lo guardo, mi guardo quelli che vivono di lì, come gli eschimesi, e campano da quello che prendono, pesci, e orsi, tutto che si può mangiare si raccogliono, pure i lupi si mangiano e si fanno le pellicce. E poi mi guardo quell'altro scemo che da lì per rivecci fa delle casette, i posti proprio estremi, da container, da roba vecchia, fa dei rifugi, diciamo, belli. Quello c'era anche stasera, quel programma. Hai visto quelle foto che ci hanno mandato? Adesso le guardo, su WhatsApp sono. Ehi, accendo anche io un paio fatte da qua, però le balazze non si vedono. E magari lo stesso sole. E si vede proprio, perché è verso Alghero, capito? Si vede proprio l'orizzonte e casi non li vedi praticamente. Vedi il sole che tramonta e basta. L'imbarazzo. È più bella quella che ho fatto io, se la trovo te la mando. Magari lo stesso sole, oggi l'hai fatta qui. Ieri. Ma con quello sfondo che ci hai messo il palazzo in mezzo non è che sia un granché. Vedi, quella ti va bene se salvi sul tetto. Allora, lo pizzicavi bene. Lo sai che mio fratello ha vinto, ma non mi ammetto se aveva vinto un viaggio. Aveva fatto delle foto del tramonto dalla torretta di Platamona nel mare, no? E aveva vinto un premio e quella fotografia l'hanno adoperata in certe riviste, lo sa. Un viaggio l'aveva imbagliato da Roma, mi pare, una ghiga. Grazie, te ne ho un palazzo, ero a casa di Marina, le ho fatte. E poi, come sono uscite, non è che mi interessi. Ci mancherebbe, anzi, ho fatto tutto un carriere. Provo a spegnere la scappa, ragazzi, non mi faccio. E se ce l'ho qua, te la mando. Aspetta, sto guardando qua. Non c'è. Ho capito. Vado giusto. Che muto tu? No, non lo trovo. Vado giusto. Ehi, vado io. E poi ho fatto anche lì a coso, a... come si chiama? Lì a Porto Dottore, se mi sembra. Così, ma dov'è che mi ha fatto bello? Tramonto. Molto belle, grazie, Si vede il mare con il tramonto. E ce li ho nel telefono, però, vai due seccari. E neanche io qua riesco a trovare. No, non ce l'ho. Eppure mi la... Luca, ci sentiamo domani, ciao, salutoni a chi è nella cerchia, buonanotte a tutti, ciao, a domani. Ciao, grazie, ciao, buonanotte, saluta la Paoletta, anche la parte di Maria, ciao, Maria qua dorme. Ehi, ha ricambiato, dorme e non mangia. Vabbè, è stanca, è uscita anche dopo pranzo. Poi delle commissioni, adesso sta riposando. E dopo mangiamo. Mangiamo dopo domani. Sì, domani. Aiuto, fai il bravo, lasciala riposare che c'ha ragione, che è stanca. Picchialo, Maria. Ciao, buona cena a tutte e due, ciao. Sì, ha ricambiato, ciao, grazie. Ciao Luca Frippero. E cerca di fare la stufa a pellet, grazie di Dio. Che anche l'occhio vuole la parte sua. Bello me. Ciao. Ciao a tutti, ciao. Luca Marcel. Ciao.